2024 di Enrico Pagliarini. Inizia una nuova puntata di 2024, quella dell'11 maggio 2013. Benvenuti o bentornati, questo è il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini, con me oggi c'è Pietro Lacorte che si occupa della parte tecnica. Oggi avremo moltissime cose da raccontarvi, però visto che il tempo all'interno del palinsesto è di un'ora e mezza, che è già molto, ma insomma avremo tantissime cose, iniziamo subito parlando di stampa 3D. Se sta parlando molto negli Stati Uniti perché sono stati pubblicati i progetti per costruire con una stampante 3D anche in casa. Queste stampanti stanno cominciando ad abbassarsi di prezzo, addirittura un'arma, c'è proprio un progetto di cui abbiamo parlato anche a 2024, di cui parleremo anche tra poco con David Orban, che saluto. David, bentornato a 2024. Ciao Enrico e ciao a tutti. David Orban è amministratore delegato di DotSub, che si occupa di video. In questo caso invece noi l'abbiamo invitato perché è advisor di una società che si chiama Authentize, e proprio con questa società tu hai partecipato molto recentemente a New York a una conferenza internazionale che si chiama Inside 3D Printing, quindi una conferenza proprio sulla evoluzione e direi anche la rivoluzione di questo mondo che è quello della stampa tridimensionale. Beh, partiamo proprio subito da un'occhiata al mercato, vedendo e parlando anche con il mondo che rappresenta la stampa 3D che ha partecipato a New York, e sicuramente c'erano i nomi più importanti. Io ho detto che questo è un mondo che è solo agli inizi, ma da un certo punto di vista stiamo già vedendo alcune dinamiche tipiche di un mercato maturo, cioè c'è già un grande business e un grande fermento attorno alla stampa 3D. E la conferenza è stata interessantissima, Enrico. Mi ha ricordato proprio i primi anni del Comdex, un'altra conferenza che ha visto nascere il mercato del personal computer, perché anche quella derivava da calcolatori, mainframe, workstation che esistevano decenni prima ma non erano alla portata di tutti. Così la stampa 3D, come prototipazione industriale attraverso macchinari da milioni di dollari, esiste da decenni, ma oggi parliamo della possibilità di portarli sulle scrivanie di tutti con macchine che invece costano poche migliaia di euro. E quindi il fermento che c'è attorno a questa industria nascente, in effetti nuova, perché con meccanismi di creazione di un ecosistema di diversi protagonisti che collaborano, un'industria che si sta sviluppando molto rapidamente, sorprendendo anche molti addetti dei lavori con le conseguenze inattese di quello che sta provocando. Senti, ti chiederei di riassumerci brevemente quello che si può fare, sia per chi si è perso qualche puntata e magari non ha ben chiaro che cos'è la stampa 3D, ma anche guardando alle ultime evoluzioni del mercato, e immagino che durante questa conferenza a New York si siano viste o magari ci sono stati degli annunci di prodotti che verranno molto presto realizzati anche grazie alla stampa 3D. E la tecnologia della stampa 3D utilizza materiali tipicamente plastici, ma è possibile anche applicarne le tecniche su carta o metalli o vetro. Così come una stampante a getto di inchiostro depone piccole gocce di inchiostro su una carta, così la stampante 3D depone piccole gocce di plastica fusa che invece però di essere stesa su un unico strato, la testina di stampa ritorna sui propri passi e rapidamente copre la superficie precedentemente percorsa con strati successivi, centinaia o migliaia di volte, finché lo strato di plastica non forma proprio un oggetto tridimensionale che al termine del processo si può prelevare direttamente dalla camera di realizzazione. La conseguenza di questo processo qual è? Che da una parte è possibile scaricare degli oggetti, il file che specifica il disegno dell'oggetto si può trasmettere da computer a computer. Dall'altra parte, un'altra conseguenza importantissima è che il tempo e anche addirittura il costo di realizzazione dell'oggetto è indipendente dalla sua complessità. Se nella manifattura tradizionale realizzare un oggetto semplice poteva costare centinaia o anche migliaia di volte di meno che realizzare un oggetto complesso, con la tecnologia della stampa 3D, questo non è più così. E quindi tutto il valore si può trasferire sull'ingegnosità di chi progetta l'oggetto, non sulla fase appunto di realizzazione. Certo, naturalmente siamo solo agli inizi di questo fenomeno, quindi gli oggetti che vengono prodotti oggi, potremmo dire, sono ancora abbastanza, sottolineo l'abbastanza, rudimentali. Ci sono anche in Italia moltissime fiere, soprattutto nell'ambito di quel fenomeno che si chiama dei makers, che quindi sono degli artigiani che sfruttano queste tecnologie, quindi si possono anche vedere in Italia stampanti di questo genere. Abbiamo anche intervistato giovani start-up che cominciano a offrire stampanti 3D a poche centinaia di euro, quindi diciamo stiamo parlando di una cosa che comincia a diventare alla portata di tutti. Dicevo, stiamo vedendo prodotti e strumenti, cose abbastanza rudimentali, però proprio nei giorni, diciamo, della conferenza è stato annunciato il raggiungimento di un obiettivo di un progetto che si chiama Defense Distributed, di cui abbiamo parlato più volte, 2024, con una persona il cui obiettivo era quello di creare un progetto per poter stampare con una stampante 3D un'arma vera e propria, cioè tanti pezzetti che poi andavano a comporre un'arma. Quindi stiamo parlando già di cose un po' complesse. Da questo punto di vista, collegando poi tutto questo fenomeno anche alla tutela della proprietà intellettuale, perché un conto è copiare una canzone, un conto è copiare un progetto per poi stampare un prodotto che magari è coperto da proprietà intellettuale. Ecco, dobbiamo preoccuparci? E Cody Wilson, che è l'animatore di questo progetto che hai menzionato, non è uno sprovveduto. È una persona che si esprime con molta precisione, in modo articolato, assieme attorno agli argomenti che la sua provocazione tocca. Naturalmente negli Stati Uniti, attraverso le protezioni del secondo emendamento della Costituzione, che dà il diritto ad ognuno di avere armi, c'è un forte contrasto tra quelli che sono i diritti individuali, diritto dello Stato e regolamenti federali. Oltre a questa provocazione che fa parlare molto della tecnologia, in effetti c'è dietro l'angolo un enorme cambiamento di come potrà essere gestita la proprietà intellettuale attorno agli oggetti, così come prima, da una decina d'anni a questa parte, stiamo dibattendo come le industrie musicali o dei film potranno cambiare, stanno cambiando, chi combattendo, chi avvantaggiandosi di quello che le nuove tecnologie offrono. Relativamente alla stampa 3D, ci sono molti scenari anche positivi, ed è secondo me importante che illustriamo anche quello che è il vantaggio di questo approccio. Già oggi è possibile realizzare parti di ricambio per l'industria aerospaziale, pezzi di motori anche automobilistici che hanno un utilizzo di materiali, quindi un peso, una massa inferiore anche del 30-40% rispetto ai precedenti disegni, a parità di resistenza o a resistenza ed efficienza superiori, e realizzarli invece che a grande costo di impianto in grandi quantità, realizzarli quando ce n'è bisogno. un esempio concreto di come questo possa cambiare le regole del gioco si ritrova in applicazioni militari, dove la catena, della logistica, la distribuzione, di tutto quello che serve, ad effettuare campagne, militari, rappresenta un enorme costo da una parte e una debolezza di questa catena. Non per niente vengono attaccati convogli di rifornimento attraverso le esplosioni improvvisate di chi vi si oppone. Gli Stati Uniti stanno già realizzando pezzi di ricambio in loco utilizzando appunto tecnologie di stampa 3D, rendendo molto più snelle le operazioni, molto più autonome e molto meno attaccabili. Certo, ti faccio però un'ultima domanda proprio su questo, diciamo, da questo punto di vista. Tu ci hai giustamente illustrato i vantaggi e devo dire, quasi sempre quando nascono nuove tecnologie sono più i vantaggi che gli svantaggi. Non è sempre al 100% così, ma diciamo che in buona percentuale è così e sicuramente anche nella stampa 3D è così. Però quello che ci mette di fronte Cody Wilson con questo progetto di Defense Distributed e tutto quello, perché in questo caso stiamo parlando, diciamo, del pericolo che uno si possa stampare un'arma in casa, quindi vada fuori controllo questo sistema. E se pensiamo questo in paesi dove le armi sono più controllate, quindi al di là degli Stati Uniti, questo naturalmente può farci preoccupare, ma ci può far preoccupare anche il fatto che io possa rubare molto facilmente, copiare molto facilmente un progetto molto complesso, che sia protetto dal diritto d'autore, io in casa mi stampo un prodotto che in realtà avrei dovuto comprare e pagare un sacco di soldi. Questi sono effettivamente rischi. Possiamo farci qualche cosa o, diciamo, i buoi sono già scappati. Allora, sicuramente i buoi sono già scappati e quello che possiamo fare è quello che tu e io stiamo facendo in questo momento, parlarne e soprattutto pensarci, educare il pubblico. Dall'altra parte ti faccio una domanda molto semplice. Tu, Enrico, ti stamperai una pistola in casa? No. Neanche io. Non abbiamo questo desiderio, non abbiamo questa pulsione. E chi ha il desiderio di possedere un'arma lo può fare legalmente, chi ha il desiderio di possedere un'arma illegalmente lo farà altrettanto. E quello di Cody Wilson è una grande provocazione, ma anche una grande distrazione. L'altra cosa che hai menzionato rispetto alla disponibilità di file di grande complessità che potrebbero essere illegalmente gestiti, è già un problema, a prescindere dalla stampa 3D. C'è già un mercato di pezzi di ricambio falsificati e la possibilità c'è di rendere la distribuzione di pezzi di ricambio molto più accessibile, che sconvolgerà la distribuzione tradizionale e la produzione tradizionale, ma potrà rendere molto più affidabili i pezzi di ricambio, non tanto in Italia o in Europa come dove questa catena di distribuzione c'è già, ma pensiamo all'Africa, alla Cina, all'India, dove 3 miliardi di persone stanno in modo sempre più massiccio adottando automobili, aerei, treni, dove oggi ci sono già incidenti dovuti alla mancanza di distribuzione affidabile di pezzi. Quindi i benefici che ne possono derivare comunque sono enormi e sono quelli che devono essere gestiti in modo che si possa garantire un pezzo che sia non solo originale, ma che sia affidabile e che sia stampata in locale quando serve. Bene, io ringrazio David Orban, ci saranno altre occasioni per riparlare di questo tema interessantissimo. A presto e buon lavoro, grazie. Grazie a te. Adesso rifaremo presto una puntata dedicata alla stampa 3D. Ne abbiamo fatta una qualche mese fa con i ragazzi di Firenze, di Ken Strapper, che producono e vendono stampanti 3D per poco più di 600 euro. Quindi se uno volesse cominciare ad abbracciare questo mondo, può farlo già con poche centinaia di euro. Mondo interessantissimo. Diciamo che la popolazione si divide tra quelli che non hanno mai visto una stampante 3D e magari ancora non capiscono bene di che cosa stiamo parlando, e quelli che invece l'hanno vista o la vedono per la prima volta e dicono: non ci posso credere. Ci risentiamo tra un minuto. 2024. Più tardi parleremo di alta definizione, addirittura di 4K di TV digitale terrestre. Metteremo insieme alcuni elementi che abbiamo anche raccolto all'HD Forum che c'è stato in questi giorni a Saint Vincent. Sarà con noi Gianfranco Giardina, il nostro numero verde 800 24 0024. Rosa, che è al centralino, adesso è in questo momento nel nostro studio, ma adesso si trasferisce al centralino, quindi se fra un minuto volete chiamare, lei è disponibile. È venuta dicendo: ho visto alcuni video sulla stampa 3D, è impressionante, effettivamente è impressionante. Adesso parliamo di sistemi operativi per smartphone. Allora, partendo però prima da una notizia che riguarda Nokia, che la prossima settimana, martedì 14, presenterà una serie di novità per la serie Lumia con Windows Phone, quindi per la parte alta del mercato. Invece nel frattempo, per la parte più bassa, che è una parte molto importante, diciamo che è più o meno la metà del mercato nei paesi avanzati come l'Europa, una fetta di mercato ancora più ampia in quello in via di sviluppo, allora in quella fascia di mercato che sta sotto i 200 euro con smartphone più semplici, c'è una competizione molto accesa che si lega anche ad un tema di cui abbiamo parlato 2024, cioè quello dei nuovi sistemi operativi. Molti dicono: per questo tipo di telefonini ci vuole un diverso sistema operativo. Infatti nel mondo dei sistemi operativi non esiste solo Android, iOS, Windows Phone, ne esistono una miriade, e soprattutto alcuni sono in fase di sviluppo, alcuni produttori stanno pensando di adottare nuovi sistemi operativi per questa fascia di mercato. Allora, questa settimana un annuncio in tal senso è arrivato da Nokia, che ha lanciato Asha Platform, un nuovo sistema operativo che è installato, il primo telefono sul cui è installato è il 501, che arriverà in Europa a meno di 100 euro la prossima estate. Di questo, di questa evoluzione che rappresenta un trend un po' per tutta l'industria, abbiamo parlato questa settimana con Paola Cavallero, che è amministratore delegato di Nokia Italia. Asha Platform nasce esattamente come dicevi, pensata per i telefoni di fascia bassa, perché vuole dare una risposta chiara a consumatori che sono disposti a investire nell'acquisto di uno smartphone nell'ordine dei 100 o comunque sotto i 200 euro. Le esigenze che hanno questi consumatori sono ugualmente di avere delle prestazioni eccellenti dal device, e quindi non riteniamo come Nokia che partire da device pensati e sviluppati e piattaforme pensate e sviluppate per un posizionamento prezzo da superiore ai 400 euro e progressivamente togliere hardware e prestazioni hardware per raggiungere il punto prezzo dei 99 euro possa essere una strada che garantisca un livello di soddisfazione del consumatore. Ecco perché nasce una piattaforma pensata per quel posizionamento. Voi dite perché, affinché il consumatore sia soddisfatto, secondo voi ci deve essere un sistema operativo ad hoc? Massimizza il livello di soddisfazione proprio perché nasce pensato con un hardware comparabile a un posizionamento prezzo di 99, quindi anche tutte le applicazioni, il mondo internet, il mondo della come viene utilizzata l'interfaccia utente della piattaforma nascono pensati per girare su questo tipo di hardware. Possiamo definirlo un sistema operativo? Asha Platform? Possiamo definirlo il sistema operativo per entry smartphone Nokia, sì. Allora, noi parliamo spesso, diciamo che i media in generale sono tutti affascinati dai telefoni di fascia alta. Questo mercato invece, quello di telefoni da 100 euro in questo caso, è un mercato quanto importante? È un mercato importante, è un mercato soprattutto importante a volume ed è un mercato importante per aziende come la nostra, perché rappresenta molto spesso il primo affacciarsi al mondo degli smartphone per un consumatore che muove invece da cosiddetti feature phone o comunque i classici telefoni a tastiera. Stiamo parlando di un mercato che, per dare una dimensione, sotto i 200 euro muove circa metà dei volumi degli smartphone oggi. Ed è in crescita. ed è in crescita anche perché questo mi le stupisce, tecnologie però è così. È in crescita anche perché l'offerta sta crescendo, perché comunque tutte le grandi aziende che producono smartphone nel mercato cercano di allargare il portafoglio di offerta, sicuramente posizionando i prodotti iconici, quindi i prodotti che oggi hanno costi e prezzi che vanno dai 500 ai 600 euro, ma anche andando a guardare un consumatore che chiede prestazioni importanti a dei punti prezzo diversi. Il mercato italiano è un mercato particolare, lo è sempre stato per la telefonia mobile. Quali sono le caratteristiche che i consumatori guardano per prime nella scelta di un telefono, di un telefonino, di uno smartphone, non so più come chiamarlo? Il vecchio telefonino, oggi chiamato smartphone. Questo comunque lo chiamate smartphone. Questi sono assolutamente smartphone. Sì. Sono smartphone. Il consumatore italiano è un consumatore che guarda in primo luogo al brand, a cosa rappresenta il brand in termini ovviamente in questo Quindi mercato. Il marchio. Il marchio, sì. Insomma, abbiamo questa deviazione di parlare spesso inglese in questo anche mercato. Anche perché parlate sempre inglese. Parliamo anche sempre alla radio, inglese. La marca e i valori che rappresenta questa marca. Ovviamente in questo mercato i valori importanti è un valore di innovazione, quindi la capacità che ha la marca di portare innovazione, ma anche la capacità che ha la marca di capire e di rappresentare all'interno del prodotto che offre quello che io sto cercando. E quindi parliamo di l'importanza per esempio dei servizi di localizzazione, di navigazione, tutti quei servizi che rendono la vita più semplice. Quindi, ci sta dicendo che in Italia vale di più il marchio rispetto al sistema operativo? In Italia il consumatore, dalle ricerche che noi facciamo costantemente, danno un valore più importante alla marca, che poi ovviamente si porta dietro un sistema operativo a secondo di quale prodotto stiamo parlando. Magari perché molti consumatori non sanno nemmeno che cos'è il sistema operativo. Probabilmente sì, e anche giustamente sì, nel senso che il sistema operativo poi nasce per essere il motore che fa girare la macchina, ma la macchina ha un nome diverso. Sì, sì. È vero che voi avete lanciato questo telefono in India con un'offerta fatta con un operatore mobile che permette di non pagare tutto il traffico che io faccio usando Facebook. Sì, è vero, e la ragione è legata all'importanza del social network per il consumatore a cui si rivolge questo telefono e questo Nokia Asha 501. Beh, tutte le volte che sento parlare di telefonini su cui è fondamentale avere Facebook, un po' mi preoccupo, però così va il mondo. Ci sono, pensate, più di 20 milioni di persone in Italia, solo in Italia, ce ne sono più di un miliardo nel mondo, che usano Facebook. Saluto Gianfranco Giardina, che sarà con noi nella seconda parte. Ciao Gianfranco. Buongiorno a tutti. Allora, oggi dobbiamo cercare di semplificare, visto che parliamo di una cosa facilissima, ma che si sta complicando in modo pazzesco. È una promessa. Saremo semplici. Bene, parleremo di TV digitale a tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. La seconda parte di 2024, il nostro numero verde per chiamarci in diretta anche oggi, 800240024, parliamo di TV digitale, cercando di capire che cosa succederà già nei prossimi mesi e sicuramente nei prossimi anni, perché noi parliamo sì molto di digitale, ma il digitale si sta evolvendo con nuovi standard, nuove tecnologie per cercare di fornire contenuti per i nuovi televisori. Cercheremo di fare un po' di chiarezza tra poco, comunque risponderemo anche alle vostre domande. Questo è 2024. Ringrazio Anita Panizza che ci aiuta in redazione durante la settimana e Giorgio De Luca che è con noi oggi. Abbiamo alcune notizie della settimana. Digital News. Partiamo da Telecom perché dopo quasi tre anni di indagine, ripeto tre anni di indagine, l'antitrust ha stabilito che Telecom Italia ha abusato della propria posizione dominante, per questo dovrà pagare una maxi multa di quasi 104 milioni di euro. Gli abusi riguardano sia le attivazioni ADSL dei concorrenti sia la telefonia fissa. L'azienda ha annunciato ricorso al TAR. Per quanto riguarda il dossier H3G, Telecom ha deciso in settimana di proseguire lo studio di un'eventuale fusione con H3G. Se ne discuterà tra circa un mese. Per quanto riguarda invece l'altra ipotesi, cioè quella di scorporo della rete di accesso, se ne parlerà il 23 maggio. Poi bisognerà naturalmente vedere chi e come accetterà le eventuali condizioni di Telecom, legacy, cassa, depositi e prestiti. che allora Telecom vuole trovare nuovi azionisti, ma dice senza cedere la maggioranza della rete. Vedremo. Microsoft ha annunciato di aver venduto 100 milioni di licenze di Windows 8 e, prendendo atto del poco successo di vendite, ha annunciato che nell'aggiornamento che arriverà tra pochi mesi ci saranno parecchie novità, a partire dal tasto Start, che era scomparso con la nuova interfaccia grafica. YouTube ha lanciato al momento nei soli Stati Uniti i primi 53 canali in abbonamento. I prezzi partono da 99 centesimi di dollaro al mese per ogni canale. Ci sono anche canali a $4.99, quindi se uno volesse abbonarsi a tutto il pacchetto dovrebbe spendere ben più di $50 al mese, il che vuol dire un sacco di soldi. Ultima notizia riguarda una banda di cybercriminali. Allora, 7 persone sono state arrestate a New York per una mega truffa da $45 milioni in una ventina di paesi nel mondo. Allora, partendo da carte di credito rubate e dopo essere riusciti ad hackerare i sistemi di alcune banche, il gruppo aveva alzato il livello di prelievo al bancomat e aveva fatto migliaia di operazioni prelevando un totale di $45 milioni. In un caso a New York sono state compiute 3.800 transazioni bancomat in 2 ore con un prelievo di $2.8 milioni. L'FBI indaga da dicembre e ha lavorato con le polizie di 16 paesi. Chissà in quanti erano però per fare 3.800 transazioni bancomat in 2 ore. Buongiorno a Gianfranco Giardina, bentornato Gianfranco. Grazie mille, buongiorno ascoltatore. Gianfranco Giardina è il direttore del magazine digitale dday.it e se uno va su dday.it, io ci vado tutti i giorni per tenermi un po' aggiornato su quello che succede nel mondo, avrà letto o leggerà che vi siete occupati ampiamente delle, non so se dire le ultime novità, però di molte notizie che sono state annunciate, dibattute all'HD Forum, dove siamo andati giovedì. HD sì. Forum, che spieghiamo che cos'è questo incontro annuale che c'è ormai, sì, da qualche anno. È un appuntamento solo per gli operatori e gli operatori del mondo televisivo, broadcast, sia della parte industria che della parte degli operatori, per fare il punto sulle, diciamo, nuove tecnologie di trasmissione e di messa in onda e per cercare evidentemente di favorire la diffusione delle tecnologie più evolute e quindi anche della qualità di visione più evoluta. Quella è la parte che a noi sta a cuore. Esatto, allora, giusto per fare, poi abbiamo anche dei contributi di altre interviste che abbiamo fatto in questo appuntamento, però giusto per spiegare le nostre preoccupazioni, diciamo così. Allora, noi oggi abbiamo una TV che è completamente digitalizzata, sia terrestre sia via satellite, ma gran parte dei contenuti è ancora irradiato, quindi arriva nelle nostre case in definizione standard, quando invece direi tutte le TV che vengono vendute, o comunque una buona parte, quelle che vengono vendute adesso di sicuro, ma okay, ormai larga parte del parco installato è in alta definizione. Il problema è che io ho una cosa, cioè ho, come dire, una Ferrari che però è utilizzata a 50 all'ora. Eh sì, è come se non avessimo le strade adeguate per la Ferrari. Di conseguenza è, da un certo punto di vista, uno spreco di tecnologia, da un certo punto di vista, e dall'altro punto di vista è anche un po' frustrante per i possessori di questi TV. Alcune volte alcuni rimpiangono i vecchi TV a tubo catodico, dicevano si vedeva meglio. In parte poteva essere anche vero per i segnali in standard definition, sì, a tubo, sì, catodico in alta definizione non ce n'erano, ma c'erano anche gli schermi che erano molto più piccoli. Ora gli schermi diventano più grandi, viva Dio, ma se l'immagine non cresce di qualità parallelamente, rischiamo di avere addirittura una percezione peggiore. Cioè l'immagine diventa più grande, risulta più sgranata, se la qualità non cambia di conseguenza, e quindi noi vorremmo vedere tanto più qualità. In questo senso tutte le nostre riflessioni che faremo oggi sono indirizzate, non certo perché vogliamo far, tra virgolette, spendere agli italiani altri soldi, anzi, oppure neanche vogliamo sostenere delle innovazioni che interessano magari solo all'industria, no, vorremmo avere delle immagini adeguate alla qualità dei TV che, sì, abbiamo in casa. Abbiamo fatto, ricorderete, qualche settimana, forse mese fa, una trasmissione sulla qualità audio, lamentandoci del fatto che anche in quel caso l'industria non ci fornisce un'adeguata qualità audio. Oggi parleremo della qualità video. Naturalmente, per parlare di questo dobbiamo parlare anche di alcuni standard di trasmissione. Allora partiamo da alcune indicazioni. Il DVB, Digital Video Broadcasting, è un consorzio formato da oltre 270 società tra editori televisivi e produttori di tecnologia. Opera in 35 paesi per promuovere gli standard della TV digitale, terrestre e satellitare. Molti di questi sono conosciuti al grande pubblico come il DVB-T, cioè il sistema con cui viene diffusa la TV digitale terrestre. DVB-T. Esistono poi altri standard per il satellite, il cavo e l'ormai abbandonato DVB-H, pensato per diffondere la TV sui videofonini. Il consorzio ha da tempo definito la seconda versione di questi standard, come ad esempio il DVB-T2, che rende più efficiente l'uso della tecnologia della TV digitale terrestre. In questo modo, quindi, si possono mettere più canali sulla stessa frequenza o, a parità di frequenza, canali a maggior definizione. Tutto il sistema televisivo è alle prese con l'aumento delle dimensioni dello schermo dei televisori, che richiedono immagini più definite. Ma mentre la tecnologia è già pronta per l'alta definizione, il 4K, gran parte dell'offerta è ancora ferma alla ormai vecchia definizione standard. E questo appunto è il problema. Adesso ci sono le informazioni che arrivano da Strade e Autostrade, poi spieghiamo anche che cos'è questa novità del DVB-T2. Perché il T da solo è il digitale terrestre, quello che ormai conosciamo tutti. Questo T2 è una evoluzione. Allora, che cos'è? Ci serve? A che cosa servirà? Tra poco. 2024. Le 16:17 minuti, il nostro numero verde per chiamarci per parlare di TV digitale, oggi in varie versioni. Oggi siamo particolarmente occupati o preoccupati della qualità. Poco fa nella scheda che avete sentito abbiamo citato il digitale terrestre e la sua evoluzione, che si chiama DVB-T2, quindi la versione nuova aggiornata. Allora Gianfranco, che cosa serve questo nuovo standard? È un'evoluzione del DVB-T e è più efficiente, quindi nello stesso canale di frequenza riesce a inserire più dati. Per essere molto concreti, su una frequenza TV dove in analogico ci stava un canale televisivo, adesso ci stanno, si può variare questo numero, ma mediamente diciamo 4 canali in ottima qualità in DVB-T. Col DVB-T2 si potranno passare a 6 canali in ottima qualità, oppure aggiungendo delle altre tecnologie aggiuntive, cioè dei codec nuovi, si potrà arrivare addirittura a 4 canali ancora, ma in alta definizione sì. E ottima qualità. Allora uno potrebbe domandarsi, ma a me che cosa me ne frega di sta cosa qua? Allora, già oggi nei negozi ci sono dei televisori che vengono venduti e c'è scritto che è già abilitato per questa tecnologia di DVB-T2, quindi bisognerà che ce ne occupiamo, perché poi uno va in negozio, è impreparato e compra magari una roba che non gli serve a niente. Eh sì, questo purtroppo la situazione dal punto di vista della chiarezza non si sta mettendo bene. E questo perché effettivamente esistono già dei ricevitori di DVB-T2, quindi dei TV o dei decoder in grado di ricevere questo tipo di segnale. Il problema è che il DVB-T2 è il trasporto, cioè il formato con cui il segnale viene trasferito, ma potrebbero essere aggiunte, prima di avere trasmissioni regolari in questo standard in Italia, degli ulteriori specifiche, diciamo così, soprattutto sul fronte delle codifiche, quel HEVC di cui magari qualcuno più tecnico ha sentito parlare, che è un nuovo MPEG, tanto per semplificare, e in questo modo i TV attuali potrebbero non essere compatibili con le future trasmissioni, quindi siamo ancora in una situazione molto fluida, anzi da quello che è uscito a Saint Vincent e hanno detto gli operatori, tutti sono convinti che il DVB-T2 quando partirà, partirà con dei codec che non sono attualmente implementati sugli attuali TV, quindi significa che un attuale TV DVB-T2 serve in questo momento, per esempio in Gran Bretagna, dove ci sono delle trasmissioni di DVB-T2 MPEG-4, quindi compatibili con i TV di oggi, ma la scelta italiana è quella di avere un codec diverso. C'è un problema, che la legge già prevede che dal 2015 tutti i TV in vendita abbiano il DVB-T2 a bordo, ma non specifica con quale versione di codec. Quale tipo e di quindi visore. La legge pone un obbligo, se non verrà modificata, le leggi sono lì anche per essere modificate e corrette, ecco, se non verrà modificata la legge dà un obbligo ai produttori per, in teoria, tutelare il consumatore. Ma in realtà il risultato finale che non lo esatto. Tra poco parleremo anche di satellite, perché se non c'è spazio sulle frequenze terrestri per erogare qualità, come noi abbiamo definita all'inizio quella che sarebbe necessaria anche in Italia, beh, una soluzione potrebbe essere il satellite. Allora, a proposito di DVB-T2, quindi questa evoluzione del digitale terrestre, allora, in Val d'Aosta, dove siamo stati appunto a questo convegno, la RAI ha cominciato una sperimentazione e proprio su questo abbiamo intervistato Alberto Morello, che è il direttore del Centro Ricerche RAI di Torino. Ma noi come centro ricerche RAI, che abbiamo sede a Torino, veniamo spesso in Valle d'Aosta per fare l'esperimentazione dei sistemi nuovi per due motivi. Prima di tutto, in Val d'Aosta ci sono delle condizioni di propagazione dei segnali complicati perché ci sono tutte le riflessioni della montagna. Seconda cosa, c'è disponibilità delle frequenze, perché se vogliamo fare una sperimentazione su Torino non ci sono frequenze, se veniamo in Valle d'Aosta invece il terreno è molto più libero. Quindi potremmo dire, se funziona in Valle d'Aosta poi funziona anche nel resto, visto che qua le cose sono un po' complicate. Assolutamente è così. Perché facciamo una sperimentazione di un digitale terrestre di seconda generazione? Allora, il problema fondamentale è la mancanza di risorse di frequenze sono anche dovute al fatto che le frequenze televisive di un tempo sono state riallocate in parte per i servizi di telefonia mobile. Questo ha portato a una compressione, aver meno spazio per trasmettere la televisione. La televisione a sua volta sta evolvendo verso qualità dell'immagine sempre maggiore. Siamo passati dalla definizione normale all'alta definizione, dopo l'alta definizione si passerà alla super alta definizione, il famoso 4K, che è quattro volte quattro schermi alta definizione messi uno accanto all'altro. Questo richiede sempre più capacità. Mancando le frequenze a disposizione per rendere disponibili questi servizi, è necessario inventarsi dei sistemi tecnologicamente più avanzati, più efficienti. Noi stiamo sperimentando il T2, che è il primo passo, un sistema che è stato sviluppato anche dal centro ricerche RAI, dalla BBC e dal DVB. Abbiamo anche dei brevetti su questo sistema. È già in operazione in Inghilterra da un paio di anni, quindi non è un sistema estremamente nuovo, è stato sviluppato 3 o 4 anni fa dal DVB. Oltre a questo sistema si pensa che nel 2015 sarà adottato assieme a questo T2 anche un nuovo sistema di codifica MPEG che permette a sua volta di raddoppiare l'efficienza di codifica. Tutto insieme ci permetterà di trasmettere segnali televisivi sempre più definiti, sempre più idonei a schermi grandissimi, con una capacità abbastanza contenuta. Senta, naturalmente ci vorranno dei ricevitori, quindi dei decoder nuovi, delle TV nuove, per ricevere il segnale del T2. Sì, io oggi nella conferenza ho detto mai più un altro switch off. Io ritengo che non sia possibile in futuro spegnere un segnale con una tecnologia e imporre alla gente per legge di cambiare tutti i ricevitori. Questo è stato fatto per il passaggio dall'analogico al digitale, non si poteva fare altrimenti, ma adesso questo credo e spero che non succederà più. Allora cosa bisognerà fare? In parallelo ai vecchi segnali che rimarranno in vita per 10-20 anni, dovremmo trovare la capacità per questi segnali più sofisticati e più efficienti l'utente, quando deciderà di passare da un televisore a definizione normale a un'alta definizione o una super alta definizione, comprerà il ricevitore adatto per vedere questa nuova qualità. Se si accontenta della qualità che ha sempre ricevuto, continuerà a riceverla sui canali terrestri. Ci sono le frequenze nonostante questo sia un formato più efficiente, ma ci sono le frequenze per accendere nuovi canali con questa tecnologia T2? Sicuramente se non ci sarà una seconda tranche di frequenze che passano dal broadcasting verso i servizi mobili, in questo caso con questo aumento di efficienza sarà possibile introdurre i nuovi servizi con i nuovi sistemi. Se invece ci sarà una nuova tranche di rilascio di frequenze verso i sistemi mobili, io penso che al di là dell'alta definizione sul digitale terrestre non si potrà andare. Quindi in questo caso, se diciamo i 700 MHz buona parte andassero alla telefonia mobile, che paga un sacco di soldi per avere queste frequenze, una soluzione quale potrebbe essere? Satellite, internet, che cosa? Sicuramente il satellite per definizione è un mezzo che non ha grossi limiti di capacità ed è anche molto economico rispetto a un digitale terrestre, costa estremamente meno, quindi sicuramente il satellite permetterà di trasmettere all'utente questi segnali ad altissima definizione. Invece la banda larga, finché non porterà le fibre ottiche a casa, e questo vuol dire investimenti paurosi che richiederanno 20 anni, prima di che questo si avveri non sarà possibile avere la super alta definizione in unicast per la vasta maggiorità delle persone. Cioè unicast vuol dire in diretta, programma in diretta? Unicast vuol dire che dall'operatore all'utente ogni volta che è il tipico on demand, quindi viene mandato uno stream per ogni utente. Oggi su internet succede questo: se 100 persone vogliono vedere lo stesso contenuto magari a distanza di un secondo, vengono inviati 100 stream e quindi serve 100 volte la capacità. Quindi lei mi sta dicendo, se oggi o forse anche per ancora qualche anno 11 milioni di persone volessero vedere Montalbano via internet, si pianterebbe tutto il sistema? Sì, abbiamo fatto il calcolo che oltre il 500.000 di utenti contemporanei su internet non possono essere serviti, neanche a definizione standard definition. E questa era la voce dell'ingegnere Alberto Morello, che è il direttore del Centro Ricerche RAI di Torino. Centro Ricerche RAI che sta facendo e da sempre fa un eccellente lavoro, anche in questo caso, in questa sperimentazione. Gianfranco, però, allora, una delle soluzioni per erogare sul digitale terrestre maggiore qualità a parità di canali, mi sembra di capire, è questa nuova tecnologia T2. Però non c'è gran spazio, anche perché io nell'intervista dicevo, se una parte di queste frequenze, sappiamo che questo è ormai un trend a cui non ci si oppone tanto, una parte di queste frequenze televisive andranno alla telefonia mobile, che ha un'altra parte, perché già un pezzo è andato. Esatto. Quindi questo è un trend, quindi non è che c'è tanto spazio. Ma allora, questo sicuramente no, anche perché, come ha detto l'ingegnere Morello, e condivido assolutamente, soprattutto non c'è spazio per fare un nuovo switch off, quindi per mettere in condizione i cittadini di essere obbligati a cambiare TV, a cambiare ricevitore. Questo per fortuna non accadrà, era l'orientamento detto da tutti, però per avere più qualità serve lo spazio. Lo spazio diminuisce e allora ci sono due alternative. Probabilmente il DVB-T2 potrebbe aiutare mettendo i servizi premium, quindi l'HD, la super alta definizione, e magari anche il 3D, non lo so, tutto quello che si vuole su DVB-T2, a patto di liberare spazio. Un primo modo di liberare spazio: trovare un sistema legale per uccidere i canali assolutamente non interessanti. In questo momento su digitale terrestre c'è un enorme numero di canali, spesso a un bitrate molto basso, quindi occupano poco spazio sì. Però di televendite, canali ripetuti, canali più uno, quindi quelli che fanno la medesima programmazione in ritardo di un'ora, ecco, questi credo che non siano servizi che il cittadino ama e quindi potrebbero essere tranquillamente sacrificati. Come? Non lo so, la G-Com ci dovrebbe forse lavorare e stabilire delle regole, no, per chi fa troppe repliche. Sì, anche per il mercato dovrebbe forse capire che è inutile irradiare cose inutili. Lo so, però non è che uno regala una capacità trasmissiva a un terzo, piuttosto se la tiene o cerca di venderla ed affittarla. Ancora un mercato fiorente non c'è, perché comunque i contenuti latitano, e quindi questo non si può fare. Spazio probabilmente per mettere il DVB-T2 invece in pianta stabile, fare tutto in simulcast, cioè trasmettere contemporaneamente tutti i canali, sia in DVB-T per garanzia per quelli che hanno i, diciamo, vecchi TV, e in DVB-T2 per chi vuol vedere meglio in alta definizione, più efficiente. Beh, questo spazio apparentemente sembra non esserci, anche perché, come dicevi, quelle frequenze probabilmente voleranno via verso i cellulari e il traffico dati cellulare. Quindi io personalmente, ma credo che mi sia andata anche una visione abbastanza condivisa in diversi operatori, vedo il satellite come soluzione assolutamente vincente da questo punto di vista. Cioè il digitale terrestre resta fare la standard definition con i TV di oggi. Purtroppo abbiamo iniziato lo switch off molti anni fa e ci abbiamo messo molti anni per farlo. Se avessimo iniziato 2 anni fa, si poteva fare uno switch off in 2 anni senza problemi, avremmo potuto farlo già in DVB-T2, subito, direttamente, ma oramai è andata, non ci si può più pensare. E quindi il satellite resta uno strumento molto efficace per tutti i servizi premium. Quindi io sposterei personalmente anche la TV Pay, anche quella che c'è sul digitale terrestre, sul satellite. Chi vuole la TV Pay va sul satellite, chi vuole l'alta qualità va sul satellite. Sì, sì. Perché, come diceva l'ingegnere Morello, costa molto meno. Attenzione! Perché qualcuno magari può fraintendere queste parole, costa molto meno ai broadcaster, cioè costa molto meno. La banda, costa molto meno metterla in onda, non costa molto meno ai cittadini, perché evidentemente devono mettersi la parabola, cioè hanno un decoder, devono avere un TV compatibile, però c'è il vantaggio che avendo banda a IOSA si può trasmettere a bitrate più alti, quindi con una qualità migliore, sicuramente in alta definizione e magari anche qualcosa di più. Sì. Quindi diciamo che, visto che siamo alla ricerca di una qualità maggiore, anche perché oramai bisognerebbe adeguarsi alle nostre TV, abbiamo molti hanno la TV, io non ce l'ho a casa la TV, quindi sto tranquillo, parlo con una certa indipendenza, diciamo così. Ci risentiamo tra pochi minuti. 2024. Questo è 2024, sono le 16 e 35 minuti, stiamo parlando di TV digitale e della sua evoluzione. Abbiamo detto che c'è una esigenza, anche perché è talmente evidente che l'alta definizione su un televisore è meglio della definizione standard, che diciamo sarebbe auspicabile che tutte le trasmissioni fossero in alta definizione. Esagerato, Gianfranco? No. Negli Stati Uniti è così, in Giappone in Giappone è assolutamente così, ormai negli Stati Uniti è prevalentemente così. Ormai non è possibile comprare più neanche una telecamera piuttosto che un banco di regia che non sia in alta definizione, quindi certo ci sarà qualche studio da riadeguare, ma è praticamente impossibile non produrre in alta definizione. Quindi molte trasmissioni che noi vediamo vengono prodotte in alta definizione pazzesco. E poi mandate in onda in standard definition. Pazzesco, e quindi pazzesco. E poi ci sono dei casi assolutamente incredibili, a mio avviso, come il primo notiziario italiano, cioè il TG1, che è tuttora trasmesso in 4/3, quindi lo vediamo con le bande nere ai fianchi, quando oramai i TV 16 noni ci sono da... Oh, naturalmente, questo lo dico io, non voglio mettere in bocca a Giardina affermazioni che non lui non dice, primo in termini di quantità, di popolazione che vede quel prodotto, non lo mettiamo sulla qualità... Non entrerei nel merito. Allora, diciamo che una soluzione per avere disponibilità di programmi in alta definizione in grande quantità, diciamo, secondo noi è il satellite, giusto? È una soluzione semplice, più semplice di tutte, anche perché pensate cosa potrebbe voler dire semplicemente fare invece lo switch off, quindi dire oggi abbiamo finito col DVB-T, passiamo al DVB-T2, quindi si cambia ancora tutto di nuovo. Ecco, questo scenario è uno scenario apocalittico che preferirei non pensare. Sì. Purtroppo il cambiamento al digitale terrestre è stato troppo lento. Quando si fanno i cambiamenti in ambito tecnologico che durano 6 anni, come è durato il nostro, è chiaro che in 6 anni cambia completamente lo scenario. Si inizia con una soluzione che poteva essere anche accettabile, all'avanguardia all'epoca, ma quando si finisce, cioè abbiamo finito praticamente a metà del 2012, quindi neanche un anno fa, quando si finisce la tecnologia è già vecchia, quindi qualcuno ha appena comperato un prodotto che è evidentemente tecnologicamente già vecchio, e questo non è buono. Certo, allora a proposito di satellite c'è già naturalmente l'offerta di Sky che pagando offre una serie di canali in alta definizione, sicuramente quella è una soluzione. Non a caso via satellite. C'è una piattaforma alternativa che non so in quanti conoscano, noi ne abbiamo parlato anche recentemente, che si chiama TVSAT, nata per offrire gli stessi canali del digitale terrestre laddove il digitale terrestre non si riceve, quindi uno può utilizzando appunto un decoder di TVSAT vedere tutti i canali del digitale terrestre, ma uno potrebbe pensare, si potrebbero mettere canali in alta definizione per far partire una buona offerta in alta definizione su questa piattaforma, sarebbe abbastanza semplice. Allora, della piattaforma e delle possibili evoluzioni abbiamo parlato con Alberto Sigismondi, che è consigliere delegato di TVSAT. Stiamo parlando di 1.840.000 carte attivate, quindi box e cam che sono state attivate e che quindi sono nelle case di italiani. Stimiamo circa 1.550.000 famiglie. ed è un numero che credo testimoni la bontà del progetto e la necessità da parte degli utenti, di alcuni utenti, di una fascia di utenti che ha problemi di ricezione sul terrestre, a dotarsi appunto di una parabola e di un decoder, cosa che altrimenti non farebbero se ricevessero bene tutto, perché comunque con 18 euro che costa un decoder terrestre avrebbero risolto il problema. Qui devono comunque spendere i soldi di un decoder che viaggia su intorno ai 90-100 euro, quindi sali sullo scalino e superi questa barriera se ne hai bisogno. Possiamo dire che il satellite per i prossimi anni ci potrebbe riservare qualche sorpresa, e quindi diciamo questo scalino che alcune famiglie hanno fatto potrebbe diventare interessante anche per altre famiglie che magari sono già raggiunte dai canali del digitale terrestre ma dal satellite potrebbero vedere qualche cosa in più? Domanda subdola, bravo. No, allora, io sono convinto che TVSat continuerà a crescere, è il satellite un po' che sta crescendo da tutte le parti, soprattutto la parte free, mentre la parte Sky, come sappiamo, è abbastanza al palo. La parte di Sat Free, di cui fa parte appunto ed è un driver importante TVSat, continua a crescere. La piattaforma si evolve, nel senso che con i box HD c'è anche la possibilità di connettersi alla rete, perché sono box ibridi. Per di più stiamo appunto lavorando con i costruttori di televisori per inserire l'elemento di DRM che TV con l'operazione TV On vuole diffondere, per costruire una piattaforma ibrida che sia interoperabile, aperta, basata su standard. E quindi questo è un bel pezzettino che sta lì. Poi c'è il tema dell'HD, ovviamente. Gli editori i grandi editori italiani si stanno interrogando sull'HD. Mediaset adesso ha tre canali in HD, canale 5 Italia 1 rete 4, la RAI ha un canale in HD che è anche su TVSat, sul satellite, mentre invece Mediaset non ha ancora canali in HD sul satellite. Tutti i broadcaster italiani si stanno interrogando su il tema HD. Allora, il tema HD è complesso per alcune ragioni. Primo, perché il broadcasting italiano ha una cultura molto DTT-centrica, che viene dal concetto appunto di possesso delle reti, che è un caso particolare in Italia, come sai. Siamo gli unici in cui i broadcaster poi di fatto controllano o sono proprietari anche delle reti. Questo porta appunto a dare centralità proprio per gli investimenti fatti e per il valore degli asset. Ciò non toglie che ormai il satellite ha raggiunto una tale dimensione che diventa quasi ineludibile il ragionamento, la domanda: ma io devo avere l'HD se lo faccio sul terrestre anche sul satellite? La risposta, a mio modo di vedere, dovrebbe essere sì. Possiamo pensare che oltre ai canali che ci sono sul digitale terrestre in HD, che magari saranno disponibili sul satellite, vista la capacità del satellite, potremmo vedere un numero maggiore di canali in HD, quindi in alta definizione? Ma guarda, io non lo escludo, perché in effetti la competizione anche tra gli operatori satellitari potrebbe portare a offerte aggressive sul mercato italiano, che potrebbero invogliare molto gli editori ad andare sul satellite. Io non lo escludo, quindi sono convinto che non ti so dire quando, ma secondo me accadrà. Allora, quindi nel giro di io dico probabilmente pochi mesi, tutti i canali in HD che vediamo oggi sul digitale terrestre, certo sono pochi, dovrebbero essere diffusi anche sul satellite, sulla piattaforma TVSat. E non è escluso, è sempre una traduzione, diciamo così, cercando di leggere tra le righe, che nei prossimi anni su TVSat vengano offerti altri canali in alta definizione che sul digitale terrestre non ci sono, mentre invece sul satellite c'è spazio e si possono mettere. Allora, va anche detto che sul satellite potrebbe nascere, chiedo a Gianfranco se i rumors di mercato lo confermano o meno, allora potrebbe nascere una piattaforma alternativa dedicata solo all'alta definizione, sul modello di HD Plus, che è una piattaforma lanciata da Astra in Germania, che per 50 euro al mese, no, all'anno, ho scritto bene, l'ho letto male, scusa, a 50 euro all'anno offre un pacchetto di canali in HD. E ci sono oggi 2.800.000 famiglie che sono collegate con questo. Potrebbe succedere in Italia? Perché no? Come diceva Sigismondi, la piattaforma TV ha anche tutta la logica di decrypting del segnale e quindi anche sistemi in qualche modo potrebbero. Se ci fosse l'ipotesi che nasca proprio un terzo competitor, che ne so, Astra lancia anche in Italia una piattaforma del genere. Tutto è possibile, chiaramente non è il momento di contrazione della pay TV come l'abbiamo conosciuta fino adesso, non ci sono numeri certi perché nessuno li dà, ma sia Sky che Mediaset stanno soffrendo con Mediaset Premium, però potrebbe darsi che sia il modello di business di questi operatori con un canone mensile abbastanza alto, no? 15, 20, 30, 40, 50, 70 euro a essere un po' il problema, mentre un servizio con un costo molto più basso, che evidentemente non potrà offrire gli stessi eventi o la stessa qualità in termini contenutistica, ma in termini di trasmissione in HD assolutamente sì, potremmo avere un pacchetto di canali a un prezzo sicuramente molto moderato come quello che hai citato, di 50 euro all'anno, quindi sì. 4 euro al mese circa, sì, molto poco. Sì. Bene, tra poco parliamo di 4K, perché a un certo punto dici, ma tutto ciò cosa c'entra col 4K? C'entra perché stanno arrivando nei negozi TV 4K. Eh sì, ci risentiamo tra un minuto. 2024. Però abbiamo parlato dell'evoluzione del digitale terrestre, cioè questo DVB-T2, abbiamo parlato del satellite che è un'alternativa a diffondere canali in alta definizione, e mentre noi parliamo da tempo di alta definizione, ci sono le TV in alta definizione, ma i canali in alta definizione sono pochissimi, tranne l'offerta appunto di Sky a pagamento. C'è già chi comincia a parlare, e noi stessi all'inizio dell'anno abbiamo dedicato un'ampia puntata da Las Vegas al 4K, e quindi parliamo di una evoluzione dell'alta definizione. Sì, ultra high definition. Esatto, ma tutto ciò che abbiamo raccontato, quindi che sostanzialmente sono sistemi di trasmissione, cosa c'entra col 4K? In che rapporto sta? All'industria il Full HD incomincia ad andare stretto, al cinema sicuramente va stretto, e già le proiezioni nei cinema, anche in alcuni cinema italiani, vengono fatte in digitale in formato 4K, quindi a una risoluzione quadrupla circa rispetto al Full HD, al cinema un pochino di più, diciamo. Adesso stanno uscendo anche dei TV con questa risoluzione, quindi 4 volte il Full HD, cioè il 1920x1080 ha raddoppiato sia in altezza che in larghezza, quindi una quantità di pixel incredibile. Si passa da circa 2 milioni di pixel, 2 megapixel, a 8 megapixel per questi TV. Una risoluzione che non c'è neanche in questo momento, per esempio, sui migliori monitor per PC, ecco, che sono di solito hanno una risoluzione anche altissima, ecco, non c'è ancora. Quindi avere dei TV a questa risoluzione è una cosa che sicuramente può far gola al tecnologo, gola anche a chi magari vuol vedere bene, ma c'è un requisito: i contenuti dove sono? Non ci sono. Cioè, cosa ci vediamo? Sono pochissimi. Ci sono innanzitutto delle cose che si possono fare con questi TV, per esempio vedere le fotografie. Le fotografie, chi era un fotoamatore negli anni 70, negli anni 80, molte volte scattava e faceva le diapositive, non soltanto perché erano più economiche, ma perché potevano essere proiettate, quindi si potevano far vedere su uno schermo largo 3 metri agli amici tutta la qualità della pellicola fotografica, proprio tutta quella risoluzione. Da quando si è passati al digitale non c'è più un modo per far vedere agli amici o anche per vedere se stessi tutta quella qualità su un grande schermo, perché al massimo noi sui TV di oggi, sui proiettori di oggi, vediamo in Full HD. Col 4K, quindi con l'Ultra HD, si passa da 2 megapixel, quindi una risoluzione che non rende giustizia alle macchine fotografiche di oggi, a 8 megapixel, una risoluzione che incomincia a avvicinarsi ai 10, 12, 16 o 24 megapixel delle fotocamere di oggi. Quindi incominciamo ad avere un dettaglio che è molto interessante. Problema: al di là del fatto che ci sono le fotografie, altri contenuti al momento non se ne vedono, se ne vedranno probabilmente, aspettiamo il lancio delle console a fine anno, perché le console game, le nuove edizioni sia di PlayStation che di Xbox potrebbero avere qualcosa a che vedere col 4K. Adesso però ti faccio una domanda da consumatore che sta in salotto. Allora, se uno guarda una trasmissione in definizione standard e a fianco a una TV, a un TV, vede un programma in alta definizione, la differenza è netta, cioè lo capiscono tutti che è molto meglio l'alta definizione, ma si nota così tanta differenza su una TV 4K rispetto all'alta definizione? Quindi poi ce n'è bisogno di tutta questa definizione? Se i contenuti sono in 4K, la differenza si nota, ma c'è un altro se, e l'altro se riguarda il rapporto tra distanza di visione e dimensione dello schermo. È evidente che se lo schermo è molto piccolo, o diciamo tendenzialmente piccolo per la distanza di visione, la differenza c'è se io sto molto vicino, ma se mi siedo sul divano che magari è a 3-4 metri da quel TV, la differenza, anche se c'è, io non la vedo più, diventa un limite dell'occhio. Quindi è inutile. Non più. Quindi diventa inutile, il problema è che la distanza di visione consigliata per il 4K, e quindi dove un occhio umano nota la differenza, che ci vede bene, vede tutta quella risoluzione, la vede tutta, non ne perde per strada dei pezzi, è pari a una volta e mezza l'altezza dello schermo, che è una condizione che al cinema capita sovente, soprattutto se si sta nella metà anteriore della sala. E a casa invece, se provate a fare due ragionamenti sulla dimensione del TV che avete a casa in questo momento e della distanza di visione, non capita quasi mai, perché vorrebbe dire vedere un 50 pollici a un metro e mezzo, anzi qualcosa meno. Quindi anche psicologicamente meno, non lo fa metro, nessuno. Direi. No, non lo fa nessuno, o meglio, il 4K dovrebbe spingere all'adozione di grandissimi schermi, oppure dico io, un po' voce isolata nel mondo anche dell'industria, riconsiderare molto in maniera molto importante il mondo della videoproiezione. Ah, però qua ci facciamo un'altra puntata. Perché la videoproiezione permette di avere schermi di 2-3 metri di base con grande facilità e quindi il 4K potrebbe avere un ruolo lì, perché allora lì sì che ho una qualità. Resta il problema dei contenuti. Adesso si stanno sperimentando delle prime trasmissioni in 4K, quindi trasmissioni televisive, quelle di cui parlavamo prima, fatte in standard DVB-T2 come trasmissione e in codifica HEVC come codifica, quindi il massimo dell'efficienza attualmente disponibile per poter fare queste trasmissioni. E però abbiamo visto che limiti abbiamo nell'implementazione in Italia di queste due tecnologie, e quindi è veramente difficile pensare che nella nazione dove sul digitale terrestre abbiamo meno di 5 canali in alta definizione in questo momento, in alta definizione full HD, si possa pensare a una rapida introduzione di questi contenuti. Sì. Quindi chi vuole comprare un TV 4K oggi, e dico anche domani, lo deve fare fondamentalmente per due motivi. Uno, vuol vedere le foto particolarmente bene. È un fotoamatore e questo può farlo con una chiavetta USB. Sì. Secondo motivo, si vuole accontentare di vedere trasmissioni Full HD, anche un buon Blu-ray, upscalato, permettetemi questo termine orrendo, quindi riscalato su una risoluzione più alta, non è propriamente... Allora, dobbiamo chiudere questa trasmissione. Ti faccio però una... Ma queste TV ci sono? Queste TV ci sono. Dove sono? In negozio? Sì, sì, stanno arrivando in negozio. Stanno arrivando o ci sono già? Se adesso usciamo le troviamo. In qualche negozio ci sono già. Ah. Sì, in qualche negozio ci sono già. Prezzi pazzeschi. A prezzi importanti, diciamo così. Un 55 pollici Sony molto bello, anche esteticamente, costruttivamente, costa intorno ai 5.000 euro. Va detto una cosa, il 4K va considerato, il TV 4K, non solo per la sua caratteristica 4K, ma per tutto l'insieme, per tutto quello che offre. Il 4K è una delle funzionalità, ma spesso e volentieri si parla di splendidi TV, ovviamente con top di gamma, con tutte le tecnologie. Un'ultimissima domanda, visto che un ascoltatore giustamente in questa settimana ci ha ricordato quello che noi avevamo detto all'inizio dell'anno, perché abbiamo parlato sì di TV 4K, abbiamo parlato anche di TV OLED, questi ci sono, perché noi avevamo detto, cioè tu avevi detto, perché i produttori avevano detto usciranno a maggio. Sì, e noi dobbiamo fidarci di quello che ci dicono, sono le nostre fonti. Se loro promettono di lanciare un TV a maggio, noi lo diciamo. Avevano mancato lo scorso anno, malgrado le promesse, devo dire la verità, ci sono ricascato e ho detto io stesso che a maggio del 2013 sarebbero stati in commercio in Italia i TV OLED, è maggio e non ci sono. E beh, quindi, è previsto che escano tra poco? Sarebbe previsto, però a questo punto uso condizionale a iosa e non mi prendo più un impegno nei confronti degli ascoltatori. Va bene. Prevedono, dicono che arriveranno entro la fine dell'anno, ma incomincio a non crederci. Naturalmente ci sono anche gli OLED 4K, molti OLED annunciati sono in alta definizione, punto, ci sono anche gli OLED 4K. Bene. Grazie a Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale dday.it. Ciao Gianfranco, grazie per essere stato con noi. Grazie mille. Naturalmente su www.dday.it trovate tantissimi approfondimenti sugli argomenti che abbiamo trattato nella puntata di oggi. Io ringrazio Pietro Lacorte che si è occupato della parte tecnica, Giorgio De Luca che ci ha fatto assistenza oggi in studio. Oggi abbiamo parlato di TV, sistemi di trasmissione e di televisori, e notate quanto complicato è diventato anche questo mondo, e come dicevamo durante la trasmissione, molte di queste cose poi uno le deve sapere, le deve conoscere, perché quando fa un acquisto si incontra e si scontra con questi termini. Bene, tutto per questa puntata, io sono Enrico Paglierini, ci risentiamo la prossima settimana. 2024.